La legge sulla procreazione medicalmente assistita continua a far discutere. Sono infatti molti i problemi lasciati in sospeso e non risolti. La tutela del diritto alla salute, soprattutto delle donne, il diritto alla maternità e alla paternità anche delle coppie eterologhe, per citarne soltanto alcuni. Una buona parte di coloro che hanno votato sì si dice comunque insoddisfatta. L'opposizione la definisce una brutta legge e dello stesso avviso sono numerosi costituzionalisti che continuano a ripetere che sarà una legge inapplicabile. Fino ad arrivare alla definizione di legge arcigna e crudele, quella data dalle parlamentari dell'opposizione e di numerose associazioni per la tutela dei diritti delle donne. Infine, una legge contestata da numerosi scienziati e medici che denunciano l'impossibilità di mettere al servizio delle coppie le nuove frontiere della scienza. Secondo alcuni medici, anche per gli aventi diritto, le coppie sterili omologhe, gli interventi proposti non sono risolutivi, oltre a generare una serie di altri gravi problemi. L'opinione del professor Carlo Flamigni, ginecologo, pioniere della procreazione assistita in Italia. Penso che questa legge diminuirà le possibilità che ha oggi una coppia sterile di avere un bambino, in modo anche abbastanza complesso, perché all'introduzione di una norma come quella del caso semplice, d'abitudine, tende ad aumentare le gravidanze multiple nelle donne molto giovani e a diminuire in modo anche molto brutale il numero di gravidanze nelle donne meno giovani. Questo è un problema particolarmente importante per il nostro paese perché la frequenza di donne meno giovani negli ambulatori che curano la sterilità cresce continuamente. Dove lavoro io 10 anni fa l'età media delle ragazze che arrivavano qui per una fecondazione assistita era di circa 34 anni, poco meno, oggi si avvicina ai 38 anni, quindi insomma questa tendenza a cercare figli più tardi sta diventando una delle caratteristiche della nostra società. Con questa legge a molte di queste domande non dico che si ponga un diniego, ma insomma ostacoli molto grossi, questo sicuramente. Alcuni dei problemi più gravi resteranno irrisolti, ma alle difficoltà della legge italiana si potrà ovviare, per chi se lo potrà permettere, recandosi negli altri paesi europei. Il professor Flamigni mette in luce alcune differenze con il resto d'Europa. Certamente in nessun paese europeo le norme sono così restrittive come nel nostro. Da questo punto di vista noi diventiamo un'anomalia. Glielo dice il fatto che la maggiore società europea che si occupa di questi problemi, che è l'Estre, ha sollevato alti lai, lamentele che avrebbe anche potuto forse risparmiarsi, non sono affari dell'Europa se l'Italia si dà una legislazione su questi temi, ma che sono dovute soprattutto al timore che questa legge faccia scuola, insomma, che trovi degli imitatori. Per il momento il fatto che in Europa si facciano tutte le cose che l'Italia vieta faciliterà i viaggi all'estero, il cosiddetto turismo procreativo. I medici dovranno stare molto attenti, i medici italiani, perché nella legge è inserita una norma che li punisce se propagandano le cose vietate. E anche su questo io credo che sia bene che il ministro della Sanità chiarisca quali sono i limiti di questa punizione. Bisogna aspettare che la politica, a partire dal ministro della Sanità, costruisca qualcosa di concreto attorno alle norme, cioè le traduca la legge in campo sanitario. Ma le norme non sono così chiare e si prestano a diverse interpretazioni. Sentiamo ancora il professor Flamigni. Io credo che questa legge abbia una caratteristica che appare una cosa e invece alla fine, guardata bene attentamente, risulta essere una cosa completamente diversa. Ci sono molti divieti che non sono sostenuti da punizioni. Questo praticamente in genere vanifica le norme. Ci sono astuzie come quelle di non citare mai certe parole nel testo in modo che esista una sorta di passerella per i medici per evitare così le pastoie della legge. Dal punto di vista morale questo mi sembra abbastanza ingiusto perché ha persuaso molti parlamentari a votare in suo favore in nome di principi cattolici che io stimo, che apprezzo, sui quali in realtà la legge ha costruito delle false attese. La cosa riguarda, per esempio, in modo molto preciso, la possibilità di congelare embrioni, che viene vietata in modo tassativo per difendere così l'embrione. È molto probabile che esista la scappatoia del congelamento degli zigoti, ma per un cattolico uno zigote è come un embrione, è persona, insomma. Non so fino a che punto sia giusto che il legislatore inserisca astuzie nelle sue norme. Io questo non l'ho apprezzato per niente. Ma non tutti i medici si sono schierati apertamente a favore o contro la legge. E sarebbe proprio questo uno dei motivi, secondo gli esponenti del governo e di coloro che hanno votato a favore, per cui si è preferito procedere cautamente nell'utilizzo delle pratiche di fecondazione assistita. La senatrice Emanuela Baio Dossi, della Margherita, a proposito del rapporto tra politica e scienza. Il mondo scientifico, devo dire che è diviso su questo tema, cioè nel giudizio che esprime su questo tema. Ci sono alcuni centri, la maggioranza dei centri che oggi praticano la procreazione in Italia, che seguono la prassi che prevede questa legge, cioè la stimolazione della donna e l'impianto della donna e dell'uomo e l'impianto di 3 embrioni. Oggi non ne vengono impiantati più di 3, al massimo ne vengono impiantati meno. Infatti, di fronte a una, per esempio, coppia che sia ancora relativamente giovane, non è necessario produrre 3 embrioni, ma se ne possono produrre anche meno. Oggi poi l'impianto dell'embrione fortunatamente non avviene più come parecchi anni fa, dopo 1 o 2 giorni, ma avviene dal 3° al 5° giorno. Questo fa sì che gli embrioni che presentano delle anomalie muoiono da soli sostanzialmente. E quindi vengono impiantati nell'utero della donna solitamente gli embrioni più sani. La legge sulla procreazione assistita è stata impostata per tutelare dei diritti e per negarne degli altri. Questo è quanto sottolinea l'opposizione, in particolare per quanto concerne la tutela del diritto alla salute e alla maternità. Maria Grazia Francescato dei Verdi. Lo Stato non deve e non può entrare nelle scelte etiche. Questo è un punto cruciale, lo Stato laico. Lo Stato laico deve garantire delle regole che permettono poi la libera scelta. Di conseguenza le regole devono garantire la più vasta gamma dei diritti. Tanto per cominciare, il diritto alla salute e alla maternità, che questa legge non garantisce per niente, quindi è anche, diciamo, nei confronti delle donne una bruttissima legge, una brutta legge nei confronti della salute, perché sapete bene che tutta una serie di punti potrebbero comportare dei danni alle donne che vogliono la maternità, e poi costringerà molto semplicemente tantissime coppie ad andare all'estero a fare cure costose e deficienti laddove queste sono permesse, quindi sarà discriminante anche dal punto di vista del reddito. E noi siamo per la procreazione assistita perché è un diritto alla salute e alla maternità. Pensiamo comunque che non ci debba essere un accanimento terapeutico troppo invasivo, ipermedicalizzato. Stiamo attenti anche a questo, non fare della maternità un fatto e della paternità un fatto medico, e quindi più possibile naturale. E poi pensiamo, per esempio, che vada creata una cultura diversa della maternità e della paternità, che non sia strettamente biologica, ma che sia proprio un fatto culturale, quindi anche premere perché l'affido e l'adozione possono essere delle risposte vere a chi ha un desiderio di famiglia. Comunque questa legge sicuramente riesce a discriminare tutto e tutti, insomma riesce veramente a fare piazza pulita di tutti i diritti minimali per cui abbiamo lottato tanti anni. Quindi noi, come sapevate, noi Verdi avevamo presentato anche una legge più avanzata che riguardava anche i diritti delle coppie gay, dei single, e ci siamo trovati a lottare sulla difensiva. Questa è la cosa triste non solo di questa legge, ma di tutte le leggi che stanno passando, che uno si trova a lottare sulla difensiva e a doversi, non dico rimangiare, ma comunque dover rinunciare a tutta una serie di passi avanti che erano stati fatti, anche passi avanti culturali che erano stati fatti nei decenni scorsi. L'impostazione della legge ha dato avvio ad un dibattito per forti contrapposizioni che una parte dell'opposizione ha scelto di rimarcare e di esasperare: i diritti del nascituro contro i diritti della madre, coppie eterologhe contro coppie omologhe, diritto alla maternità contro diritto alla salute. Secondo alcuni la causa è stata l'aver spostato la discussione da un piano politico ad un piano ideologico, filosofico, ma soprattutto etico e religioso. Il senatore Natale D'Amico della Margherita ha invece votato contro ed esprime le sue perplessità circa l'attuabilità della legge in campo sanitario, oltre che sulla questione delle tutele del diritto alla salute. La maggioranza l'ha messa così: dobbiamo tutelare l'embrione anche rispetto alla madre. Molti di noi ritengono che l'unica tutela possibile dell'embrione è insieme alla tutela della madre. Le faccio un esempio banale. Ma una coppia accede perché rientra nelle caratteristiche previste dalla legge. A questo punto scopre, cosa che è possibile con diagnosi preimpianto, che l'embrione è un embrione portatore di una malattia genetica. La tutela che la legge sembra affidare a questo embrione è dire: comunque tu devi essere impiantato. La madre non può più rifiutare il consenso una volta che sia avvenuta la fecondazione in vitro. Quindi sembra che stia tutelando questo embrione. Ma in realtà non lo sta tutelando affatto, perché come lei sa, la madre poi può abortire. Talmente irragionevole l'impianto che si costruisce così: io ti costringo a che ti venga impiantato l'embrione malato, ma ti lascio aperta la strada dell'aborto terapeutico, che è lasciata aperta dalla legge, che viene il dubbio che alla fine vada a parare a un attacco alla legge 194, alla legge sull'aborto. E in tema poi di diritti, l'opposizione, soprattutto di area centrista, si è divisa. Ancora la senatrice Emanuela Baiodossi, che ha votato a favore della legge. È sbagliato mettere in contrapposizione i diritti del nascituro e del bambino con i diritti della madre e dei genitori. È proprio sbagliatissimo, e posso dire, oltre che sbagliato dal punto di vista filosofico, culturale, umano, è innaturale. Perché non avrebbe senso mettere gli uni contro gli altri. La legge riconosce un limite, però, consentendo la procreazione omologa, cioè solo fra una coppia che vive insieme, e non invece il ricorso allo spermatozoo praticamente di un esterno. Riconosce che ci possono essere dei limiti umani oltre i quali anche la scienza non è in grado di risponderci. È il riconoscimento del limite dell'uomo e del limite della scienza. Praticamente è difficile da accettare questo discorso. Io mi rendo conto che di fronte ad una coppia che desidera un bambino e quindi è disponibile, ha una volontà immensa di trasmettergli solo amore, certo che è difficile in quel momento in cui esprime questo bisogno, questo desiderio, è difficile dire di no alla procreazione eterologa, ma è nell'interesse loro e del bambino che viene fatto, non è per essere contro di loro. L'appello del Vaticano, onorevoli colleghi e colleghe, è contro la legge sull'aborto e per l'approvazione in tempi rapidi della legge sulla fecondazione assistita, una legge contro le donne, il cui unico scopo è quello di colpire l'autodeterminazione, principio costituente della cittadinanza delle donne. La legge ha sollevato un ampio dibattito sul tema dei diritti e delle tutele. Tra i temi più discussi, l'accesso alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie eterosessuali e il divieto alla fecondazione eterologa, ossia fuori dalla coppia riconosciuta. A favore di un'apertura verso la fecondazione eterologa c'è l'opposizione parlamentare, ma anche numerose associazioni e singoli cittadini. Betty, del Sexy Shock, un laboratorio sulla sessualità di Bologna conosciuto in tutta Italia. Oltre alle questioni, come dire, scientifiche, che sono altrettanto gravissime, che riguardano la legge, l'altra cosa terribile è appunto chi è che può accedere a questa legge, che sono soltanto coppie sposate o conviventi, ma per dichiararsi conviventi serve una tragedia burocratica che non ha niente a che fare con il riconoscimento della convivenza per se stessa, se eterosessuali ricche, perché per accedere a queste pratiche bisogna disporre di un conto ingente quantitativo di denaro, e quindi il regolamento è una famiglia che di fatto non esiste, quindi questo è un diritto assolutamente indietro rispetto alle pratiche di vita delle persone, che non soltanto, non parlo soltanto dell'omosessualità, che sicuramente è un aspetto molto importante, ma anche di tutte quelle persone che hanno fatto le scelte di vita rispetto alla coppia, rispetto ai propri desideri di vita, che si sentono, che sono assolutamente tagliati fuori dalla cittadinanza che viene riconosciuta come destinatario di questa legge. Il 24 gennaio si è svolta a Roma la prima di una serie di manifestazioni contro la legge organizzata dalle parlamentari di DS, PRC, Comunisti Italiani e Verdi, alla quale hanno partecipato centinaia di donne giunte da tutta Italia. Questo primo appuntamento ha dato avvio ad altre iniziative, tra le quali la campagna Viene prima la gallina dell'uovo, promossa dall'associazione Amatrix e appoggiata da altre associazioni. La campagna uova consiste in sostanza nella disseminazione virale di uova. La prima pratica costruita per lanciare la campagna è impacchettare delle uova d'oro, quindi d'oro come il costo dell'accesso alle tecniche di riproduzione assistita, stabilito da questa legge, e infiocchettate di rose di azzurro e dotate di carte identità che contengono i requisiti del cittadino modello nell'Italia contemporanea. Per cui queste uova sono state intanto disseminate una prima volta il 24 gennaio a Roma, e lo saranno nelle prossime settimane in varie città d'Italia. La prima tappa sarà Bologna il 7 e l'8 febbraio, dove una rete di donne, e in particolare le donne del Sexy Shock, hanno indetto una contrazione, ovvero una 2 giorni di manifestazioni e di workshop contro la legge. Anche il dibattito politico è stato strumentalizzato e viziato da alcune forti contrapposizioni, laici e cattolici, liberali e meno liberali, progressisti e conservatori. Tra le conseguenze politiche, la nascita di schieramenti trasversali ai due poli. Il senatore D'Amico contro i facili giudizi di parte. Il numero di parlamentari di Margherita che ha espresso il no al disegno di legge sulla procreazione assistita qui al Senato è stato di 13-14 senatori, quindi quasi la metà del gruppo. Alcuni di questi senatori, come chi le parla, sono laici, alcuni senatori non solo sono cattolici, ma sono fra coloro che fanno del cattolicesimo uno dei motivi del proprio impegno politico, quindi non credo che sia la distinzione sia stata fra laici e cattolici, so così che così è stata rappresentata, ma era in realtà una distinzione che a me piace chiamare fra più e meno liberali, ecco, ma non fra laici e cattolici. Secondo Maria Grazia Francescato dei Verdi, il dibattito sulla procreazione assistita ha evidenziato un pericolo più grave: il ritorno dello Stato etico. Che mi preme far capire che sta venendo meno lo Stato di diritto. Questo, quello che loro, che gli inglesi chiamano the rule of law, proprio il concetto di diritto, del fatto che lo Stato, appunto, lo Stato laico, garantisce regole ma non impone scelte etiche. E questa è la cosa che credo preoccupi tutti quanti.